All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, è la cena dei regini, bentornati alla cena dei regini, io sono il Bach, ogni settimana organizzo questa cena in cui parliamo delle nostre attività, di quello che facciamo e conosciamo amici nuovi o comunque mangiamo tutti assieme, che è sempre una bella cosa. La cena dei regini inoltre è anche una trasmissione radiofonica grazie a Radio Abawal, che ci trasmette e ci manda in streaming tramite il sito radioabawalla.net. Se volete contattarci, il nostro sito è ilbach.it e cliccate la cena dei regini. Adesso, mentre serviamo, comunque finiamo di mangiare la pasta, mandiamo subito in Basement Skylights con Killing Fields. Life here is a little too quick for me. Maybe you think you're fast enough to keep up with us, huh? Radio Abawala, don't be common, be creative. La cena dei regini, visitate il nostro sito www.ilbach.it e cliccate la cena dei regini per partecipare alla trasmissione. Adesso un attimo il nostro angolo per dove parliamo delle cose realizzate in quest'ultima settimana. L'ultima settimana ci ha visto protagonisti dello stand al Forte dell'Altra Economia con i ragazzi che hanno portato il loro stand e svolto le loro esibizioni musicali sul palco. Andrea vuole parlarci della nostra attività là, cosa abbiamo fatto? Che cazzo è sotto al palco? Boh, praticamente ci siamo messi d'accordo con un gruppo musicale reggino che fa cover dei Nightwish, gli Opera. Durante la canzone Wishmaster io, il Bach e Nico ci siamo messi sul palco e abbiamo inscenato io e Nico abbiamo fatto i guerrieri che combattevano tra di loro e il Bach evocati da me che faceva il mago oscuro. Abbiamo fatto questa coreografia che ha coinvolto tutti, infatti hanno ancora commentano che gli è piaciuto molto. Sì, abbiamo avuto un feedback, ci sono state molte riprese che speriamo di vedere presto anche noi. ancora non è arrivato nulla. Sì. però è stato molto bello. Poi tra l'altro con gli Opera c'era un'amicizia precedente che si è consolidata con questa cosa, stiamo cercando di portare avanti anche un altro progetto, però è bello quando un po' la rappresentazione si unisce alla musica, è una specie di musical improvvisato. Poi è stata una giornata veramente bella perché il posto, il parco di Ecolandia, è molto particolare e insomma poi venire a contatto con tante attività della Reggio alternativa, dell'economia alternativa a Regina è sempre bello, quindi abbiamo visto un po' di tutto, come stand, come persone, come personaggi che, come dire, vivevano gli stand, in particolare un vecchietto che era accanto a noi e attaccava il bottone ogni 2 secondi. E la storia incredibile, tra l'altro, di un signore che aveva una fabbrica di strutture per circo e strutture viaggianti, una cosa che veramente non sapevo. Cioè lui aveva questa fabbrichetta italiana qua a Reggio, dove creava le strutture per tutto quello che sono in una parte, queste strutture viaggianti. Un fattorato, diceva, notevole, e sta fabbrica ha dovuto chiudere perché comunque lo Stato non l'ha supportato, ha avuto diversi problemi, chiusura, e quindi l'altra economia era anche questa, e lui era là a vendere piattini e cose varie, una cosa incredibile, oggettini fatti a mano in legno. Che peccato. Sì, vabbè, infatti l'ho ricontattato, ci siamo messi in contatto perché forse verrà a parlare anche lui di questa cosa. Era comunque una giornata molto molto bella. Altro da dire? Anna? No, dal mio punto di vista, che è stato particolarmente lo stand, il nostro stand, ho visto molti volti, molte persone interessate, molti che si soffermavano anche a domandare soprattutto del significato delle foto, no? Ed è stato bello comunque andare a riprendere momenti che abbiamo passato, e è stato bello anche spiegare che cos'è veramente l'Aus, che cos'è veramente l'Ars, e ho visto in molti quella luce che io ho avuto quando sono entrata qui. Bello. Non lo so, l'entusiasmo, sai, di quelli che scoprono qualcosa di arcano. Tanto per rimanere in tema, insomma. Arcano nuovo e mistico, perché noi siamo anche questo. Adesso i Radio Star con A Common Tale. Down. la cena dei regini. Veniteci a trovare sul sito www.ilbac.it e cliccate la cena dei regini per avere la possibilità di accedere alla nostra consultazione popolare che va avanti, la consultazione popolare che raccoglie tutte le memorie, i ricordi su come giocavate al vostro facciamo che, cioè quel gioco che si fa da ragazzini dove si prende un oggetto di uso comune e lo si riutilizza come se fosse un qualcosa di fantastico. Potete dirci voi qual è il vostro facciamo che facevate da ragazzini e tornare per un minuto indietro nel tempo e alla vostra gioventù. Ragazzi, adesso parliamo delle cose che abbiamo da fare in questa settimana. Per prima cosa il servizio fotografico, comunque i servizi fotografici che ci verranno impegnati da giovedì in poi da mercoledì in poi a fare delle foto sia per il sito ilbac.it che il sito dell'ARS. Andrea si sta preparando in pose molto ammiccanti per tutti voi. Andrea, no, il calendario dopo, non adesso, metta. Ma volevo mettere delle immagini. Volevo mettere un po' di carne in questo. Esatto. No. Magari kilt senza maglietta, via. Sì, perché scottish. No, penso che ne faranno volentieri a me. Possiamo fare anche a meno di questo. E quindi faremo queste foto che saranno sui volantini e sulle prossime immagini pubblicitarie. E poi da giovedì la visita alle nuove location per le nuove serate a tema. Iniziamo giovedì con questo appartamento che si trova a Lazzaro, dove andremo con la nostra Andreina a fare questa visita e a sistemarlo per la prossima Mystery Night. E poi andremo nella prossima settimana a Villa a vedere altre due location all'aperto. Ragazzi, giovedì si va a Lazzaro. Andrea, pronto? Cosa? Non è nato. Io sono nato e poi sono diventato pronto. Recitazione, un'altra. Giovedì qualcuno è libero per venire all'Azzaro? Certo. Ci siete? Yes. In mattinata, ragazzi. Sì, da pulire. Sì. In mattinata. Non posso venire. Andrina. Questo la aspiravolvere. C'è già. Lo so io. Ok, aspirapolvere. Mettiti una maglietta che può essere sporcata, così ti trasciniamo per tutta la stanza. Perché mi devi trascinare per tutta la stanza? Hai i capelli, sono sporchi. Io sono. Quindi, Andrea, ok. Chiamatemi Swiffer. Quindi. Quindi l'idea è di portare Andrea in questo appartamento e utilizzarlo come. Ma anche Nico, guardalo. Spolverino. Buono, due spolverini per pulire tutto. E poi. Polvere bello grosso di quella bidone. Ma già abbiamo tutto là, no? Tutto pronto. Più di altro devo contattare lei per vedere la sua disponibilità. Una vetata per la serata. Andrea. Sorpresa. La voglio. Penso che anche la mia amica finlandese mi chiamava Moppy Tuk, che vuol Andrea dire, farà il cadavere vero, che vuol dire testa di, come si chiama, di? Testa di mocio. Effettivamente su quell'interruzione mi sono preoccupato. Vabbè, in qualche maniera si fa. Quindi ci saranno l'aspirapolvere, ci saranno i panni, soprattutto ci sarà la soddisfazione di utilizzare Andrea sul pavimento com'è. Vabbè, un pavimento di marmo, uno dei più pregiati. Vai tranquillo Andrea, un pavimento di marmo dei più pregiati. Quindi lo dobbiamo sporcare con Andrea. Ah, ma questa casa la vedete che ve la brucia, insomma. No, Andrea, ci vedo con la mia. La tua è già bruciata, tranquillo. Le manie di vendetta di Andrea. Comunque, ragazzi, è la mafia. Queste cose, e poi passiamo alla ridefinizione della Mystery Night e del prossimo live di Camelot e via dicendo. Luglio deve essere ricco di live, ragazzi, perché abbiamo capito. Abbiamo sistemato qua le strutture, quindi possiamo fare ancora più cose. Belle strutture. Bellissimo, dei gazebini fatti proprio ad hoc per questi eventi, che adesso sono ben quattro, a Kess ce n'era solo uno. Esatto, compaiono come funghi. Fantastico, bastava prenderli e montarli. A scuola sono tutte parati. Va bene, e adesso, visto che siamo come un esercito che si prepara alla guerra, lanciamo Dead Rocks con Weapons. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. La cena dei regini, torniamo nel nostro angolo delle notizie in compagnia dell'uomo della strada e di tutti comunque i commensali e la cena, per commentare le notizie più strane o divertenti che ho trovato in questi giorni sulla rete. Allora, le notizie sono un bel po', sono particolari, con il nostro uomo della strada Daniele in particolare in prima fila. E la prima è che finalmente il governo italiano ha dato la possibilità legale di offrire l'accesso gratuito alle reti wifi, come avviene in molti paesi europei. sarà possibile, essere prevista dai nuovi decreti, il cosiddetto FAR, la liberalizzazione dell'accesso ad internet tramite wifi. Resta l'obbligo del gestore di garantire tracciabilità mediante identificativo del dispositivo utilizzato, però comunque l'offerta per pubblico internet sarà libera, quindi non era possibile fino adesso collegarsi a internet liberamente, dare l'accesso a internet, perché secondo una legge che mi sembra sia stata la legge Urbani, che comunque non permetteva, bisognava identificare singolarmente chi accedeva al web. Invece adesso c'è la possibilità, finalmente, come ogni paese civile, di collegarsi gratuitamente ad internet e di dare la connessione. Cosa che avviene qua dal 2009, però la via Marina è tutta libera. Ma là ti dovevi registrare. Infatti mettevi nome e cognome, registrazione normalissima come tutti gli accessi. Quindi uno poteva anche dare nomi falsi, però c'era sempre, ti richiedeva il cellulare, l'email e via dicendo. E quindi, però è bello che finalmente anche il mondo si apre a questa liberalizzazione di cui all'Aus siamo stati i primi antesignani, per una volta. Siamo sempre gli ultimi. Ora bisognerà bisognerà vedere se abbiamo la copertura wifi, perché ma dire che c'è fa piacere, però chi sarà così sprovveduto da dare una buona copertura wifi? Ma io penso ai locali, che so, comune, zone, diciamo, va bene, ma poi la cosa è proprio questa, e poi penso che sarà un po' come la 4G. La 4G sarebbe una bella idea. Comunque è già legata al discorso telefono, c'è già l'identificativo, dice. La 4G? No. È un'antenna wifi che viene puntata verso gli operatori, un po' come sta facendo la Omni, come sta facendo la Wind, come stanno facendo la TIM, con quei box piccolini che tu metti dentro la tua casa, colleghi solo la connessione. 4G. No, ok, la confondevo con la 3G. La 3G sono i telefoni, okay. Gli accessi ADSL, diciamo, telefonici. Ok. HTDSA, HTTPS. La 4G. La 4G ha un unico inconveniente: la quantità di dati, cioè vuol dire se ci sono 100 persone la banda viene divisa per 100, ce ne stanno 1000 la banda viene divisa per 1000. Quindi a un certo punto tu hai dei grossi server che possono darti una banda, che so, di 70 megabit, e poi lo devi dividere per tutte le persone. Se ci sono 100 persone già arrivi a 0,7, se ce ne stanno 1000, il problema è questo: non tutti hanno la facoltà di creare dei server, aumentare il numero di server in base al numero di utenti. Chiaro. Inizialmente iniziano con 10 macchine, poi vedono che gli utenti aumentano, quando proprio stanno affogando ne comprano una in più, quello è il problema. Comprassero 10, migliorano la situazione, ne comprano una in più. E quindi sembra che non si stanno più affogando, ma non vanno tanto bene. E c'è gente che si lamenta. Ma col wifi, voglio dire, basta una connessione abbastanza veloce. Esattamente, la 4G e la wifi sono degli hotspot liberi, che speriamo, almeno nelle grandi città, Reggio Calabria come lo è. Ma secondo me sì, soprattutto nei locali, secondo me girerà molto. Sarebbe fantastico. Nei locali e ormai. Poi io non faccio pubblicità perché sennò poi sembra male. Vicino ad alcuni negozi in pieno centro. Vicino a Piazza Italia, 40 metri più a destra, un po' più a sinistra sotto, ci stanno qualche wifi gratis. Sì. Che utilizzano, sì. Che sono degli DSL aperti. Aperti. Li usano apposta. Sì. Nei negozi. Per dare la possibilità a tutti di collegare. Ma secondo me da qua a poco, secondo me già adesso. Faccio, cioè, andare in un locale dove non c'è l'accesso ad internet, cioè veramente essere esclusi per... Sarebbe bello, ad esempio, poter entrare dentro il locale, aprirsi la pagina web con il menu. Sarebbe del carino, locale davvero. Oppure averti un piccolo tablet sul tuo tavolo. Sì, assolutamente. Che ti colleghi, ti guardi, fai l'ordinazione tu stesso sul tablet. Che un tablet ormai si costa intorno a 40-50 euro. Sì, sì. Non penso esagerare. E poi da lì arriva il cameriere e ti porta quello che hai ordinato, senza dover ogni volta fare trafile cose. In versione digitale proprio. Sì, sarebbe una cosa buona. Ad esempio, non fa remake, non faccio pubblicità. Conosco un posto dove ti arrivano con l'apparecchietto cellulare, in effetti. È vero, pure io ne ho visti. Ti dicono cosa preferisci, ti lo scrivono lì e loro già. È vero. La macchina già preparata, gli arriva al pizzaiolo. Oggi ho fatto la pubblicità. Alla pizzeria arriva quello che devi preparare e l'hanno fatto. Ma sai che non è la prima volta che sento di questa cosa? Non ho visto più pizzerie qui a Reggio che hanno già questa innovazione. Si dice innovazione. Sì. Sì, ma ormai sono cose di accesso comune, come un'altra cosa di accesso comune di cui abbiamo parlato anche le altre volte, che però sta facendo grandi passi in avanti, è la stampante in 3D, l'ultimo esploit gadget bello grande è costruire le case in 3D. Interamente in 3D, le stanno realizzando ad Amsterdam e già le stanno stampando. Quindi questa stampante in 3D che prende la plastica e la modella perfettamente secondo uno schema che è un modello in 3D inserito da un computer, sì. Quindi con pochi K il modello in 3D lo può realizzare. E questa stampante è stata fatta, così vi immagino, in una maniera abbastanza grande per essere pronta a stampare di tutto, e quindi si stampano pezzi di queste case e si assemblano. Ad Amsterdam stanno facendo questa, che sarà la prima casa stampata in 3D e diventerà una specie di museo dell'arte moderna finalizzato alle opere stampate in 3D. Altra cosa particolare, secondo me bellissima, di questo progetto è che saranno utilizzati materiali alternativi da poi rimodellare in plastica, come bioplastica o bucce di patate o rifiuti organici. Quindi la gente di Amsterdam, ognuno va, porta la sua patata, il suo rifiuto, la sua cosa, e farà parte di questa cosa, che è bellissimo. Secondo me c'è anche fare riflettere il futuro, perché pensa tu, riutilizzare la plastica per fare oggetti di uso comune, addirittura pezzi di casa, cioè. No, questa è una bella cosa. Questo lo ignoravo. Si chiama Kammermaker. Ma penso che sia proprio Maker. Come è scritto? Kammermaker. Però Kammer sarà in. Kammermaker. È creata da due tecnici olandesi e da solo stanno mandando avanti questa cosa per un po'. Tempo di rifare il tetto dell'Aus, poi scopriremo che si poteva fare in 3D risparmiare tutto il lavoro, e vi dicendo, tutto più che con tutta la spazzatura e le cose che avevamo prima, dove le potevamo utilizzare. Tra l'altro è molto carino, perché adesso è un pilastrino che lo stanno tirando su, veramente impressionante. Stavo pensando a una cosa, si può stampare cibo con la stampante 3D? Ancora no, però il prossimo utilizzo sarà, come spiegava qui, di poter replicare innanzitutto i tessuti umani per creare degli organi sintetici per trapianti e via dicendo. Ed è una cosa fantastica. E poi cibo per cannibali. Sì, si inizia dal cibo per cannibali e poi si passa a quello. Si passerà alla legalizzazione del cannibalismo. Legalizzazione. So di certo tramite che ci sono delle stampanti, dei laser particolari, che toccando dei materiali particolari, ora non so il tipo di materiale, fa vaporizzare il materiale stesso, utilizzando proprio dei particolari laser. Quindi probabilmente utilizza questo tipo di plastica con questa, diciamo, caratteristica chimica, sì, che è colpito, sì, da questo laser, viene inciso, proprio incide il laser e ne crea la forma. No, questa stampante tramite questo beccuccio mette proprio la plastica dove serve. esatto. Quindi crea in tempo reale, come okay. Cioè la stampante stampa, se ti ricordi, la stampante ad aghi, e tracciava con gli aghi i punti dove doveva stampare. Questo fa la stessa cosa con il 3D, quindi stampa tutto. Quindi invece di togliere, aggiunge. Okay. Nello spazio aggiunge. Dicevi? No, la domanda se questi organi sono funzionali come gli organi. Sì, sì, sì, alla fine sì. Già adesso utilizzano i modelli fatti con la stampante 3D per le protesi per le persone con handicap o disagi vari. Le gambe, certo. Che fatti in questa maniera sono protesi che costano pochissimo e si possono aggiornare, rigenerare e via dicendo. E in più in futuro l'ideale sarebbe arrivare a proprio creare questi organi perfettamente compatibili partendo dai tessuti umani. Quindi sarebbe una buona cosa. Sarebbe fantastico. Il traguardo è bellissimo, perché di questi tempi ce n'è bisogno. Ogni volta si crea qualcosa per aiutare un po' di studio. Sì, effettivamente sì. Speriamo. Sono i tempi difficili. E in tempi difficili si sviluppano anche lavori che non ti aspetteresti. È un mondo segreto, come vedete definito qua, è dei prestanome online, questo nuovo lavoro alternativo sotto banco che sta funzionando alla grande, cioè persone che non hanno più nulla da perdere nella vita in pratica e fanno da prestanome per quelle attività che sono illegali tramite il web, ad esempio quei vari virus, come ho parlato l'altra volta, che derubano, oppure quelle pubblicità false per scroccare soldi alla gente, eccetera. Tu trovi a risalire al proprietario e poi scopri che ho solo un prestanome. Si chiama Pepito Sbezzecuti, perché ha visto Don Camillo. Pepito Sbezzecuti ti ha dato solo il suo nome e cognome e tu puoi fare azioni illegali tramite il suo nome. Abbiamo trovato un lavoro da Andrea. Esatto. Il prossimo sarà Andrea Sbezzecuti. Sbezzecuti. Noi abbiamo. Io odio altro. Tutti e voglio uccidervi. Ma prima vi brucio la casa. Prima vi brucio la casa per farvi perdere tutto ciò che avete caro. E poi lo ristampi in 3D e lo ribrucio. Esatto. Fai direttamente le fiamme in 3D. Esatto. Ma se lo so fare fiamme in 3D. Pensaci. Sarà il futuro. E non si può intervenire. E poi il maniera. Teletrasporto. No, perché comunque Star Trek. Mi raccomando. Il discorso è che c'è quello che è veramente meraviglia è il fatto che sono intere bacheche piene di annunci di possibili prestanomi. Cioè, è infatti una cosa che uno è inimmaginabile. Per la disponibilità, il numero di disponibilità di queste persone, perché senza fare nulla, persone che sono magari già segnalate, no, ma più che altro sono persone che ad esempio anziani. Più che anziani sono persone che hanno già debiti, oppure persone che erano imprenditori a cui è fallita la società e quindi nulla tenenti, che non hanno nulla da perdere, quindi si dedicano a queste cose. E quindi c'è questo mondo. E si guadagna con il lavoro simile. Ebbene sì, si guadagna anche non poco. Perché chi sfrutta, diciamo. Io mi interessato. No, sono scioccata più che altro. Un po' come prestanome che ci sono nelle società, no? Capita che uno arriva, grande industria, grande cosa, eccetera, il tizio, il proprietario è questo. Poi l'affittista stranamente fallisce, vanno a chiedere i soldi a questa persona e questa non sapeva neanche di averci la ditta. Infatti, però in questo caso non la sapevo. È successo a mia madre, sì, sì. Lo sapete? Quando dovevamo comprare casa, praticamente c'è stata questa società che chiedeva soldi in cambio di come si dice? Servizio. Di servizi come trovare la casa, comprarla, eccetera, eccetera. Agenzia immobiliare. Non era un'agenzia immobiliare, era qualcosa di più, perché aiutava anche a trovare lavoro, era aiuti in generale. Tutto fare. Okay. Praticamente Boh, mia madre a un certo punto, dopo che aveva preparato i soldi sul conto in banca, si dice, ah, controlliamo sta agenzia che cosa fa. Cerca questo sito e non c'era. Allora, lei che cosa aveva intuito subito? Un'agenzia del genere, che non ha un sito internet, è strano. Certo. Corre subito e si sente i soldi in banca. Qualche mese dopo, questa agenzia praticamente aveva meno soldi di quanti ne sta dando mia madre, ed è fallita. E praticamente aveva rubato soldi a tutti quanti. C'è stato questo servizio in TV con tantissime persone a cui avevano rubato questi soldi e non è dovuto restituirli, né sono andati in prigione. Non sono fallito, perché fallendo hanno gestito la cosa. Purtroppo sì. Quando sarei vecchio il lavoro tipo 40 giorni. Con l'unico listino prezzi che è stato discusso è che per a queste persone acquistare, farsi intestare una PostePay e una SIM card viene dato 50 euro. Quindi solo per farsi una SIM card e darla a questi individui per traffici illeciti, 50 euro te li danno subito. Solo per faccio subito. pensiamoci. Rendi conto che io 50 euro di lavoro in una giornata, mi faccio. Invece ti basterebbe fare una SIM card veloce e la dare, e poi lo sai, domani ti poi troverai. Quello che ci fanno con la SIM card non me ne frega niente. Magari alle effigi qualcuno muore di fame perché c'è questa SIM card che gira, però è un mondo veramente pazzo, ragazzi. Torniamo dopo una pausa musicale con le classifiche. Adesso Moon & Sound con Salt e Indigo. We will rise from below. We will rise from below. E la cena dei regini, torniamo assieme a tutti i commensali che questa sera sono a Laos con me e andiamo ad analizzare due particolari classifiche che sono state stilate da BuzzFeed, il sito buzzfeed.com, e la prima illustra 10 regole, 10 punti fondamentali per essere un buon vicino di casa. Sappiamo che qui a Laos abbiamo un bel vicinato che ci ha permesso grandi cose in passato. Sì, grandiosi. Ringraziamo tutti, soprattutto nonna Nuccia che ci ha portato le torte quando c'erano i bambini, ha fatto una cosa straordinaria. Lei quando c'erano i bambini portava queste torte fatte in casa e abita qua sopra. E comunque giusto, no, sono i vecchi, questo è da aggiungere tra le regole, 10 regole per essere un buon vicino di casa. Vabbè, i vicini, i vecchi di Nico, dov'è che gli tiravano addosso le torte? Ecco, come non essere un buon vicino di casa. Allora, primo al decimo posto, secondo BuzzFeed, c'è la regola: tieni gli occhi sempre ben aperti e controlla tutto quello che potrebbe mettere in rischio la sicurezza del vicinato. È la più grande responsabilità di un buon vicino. Secondo BuzzFeed si dovrebbe fare questa specie di opera di controllo su tutto, il vicinato. Reggio Calabria lo fanno molte, sì, infatti, proprio. I balconi sono pieni di queste videocamere umane di sorveglianza. C'è un campionato internazionale della sfida alla chiappa e il dettaglio. Non mi spiego perché il sito è evidentemente fatto ovviamente sul modello americano, perché quindi è una specie di decalogo un po' alla Ned Flanders. Il nono punto è: condividi gli attrezzi da lavoro che non tutti usano con regolarità e che quindi non tutti compreranno. Cioè, Ned Flanders proprio. Quindi lui dice, deve ancora ritornare, prendersi tosa erba che aveva prestato. Ovviamente c'è il regino Homer Simpson che tiene tutto. Tutti i regini praticamente. Sì, non esatto. Sono così. Regino Homer Simpson. Invece ci suggerisce, fai, cioè, la zappa condividila con gli altri, che il contadino ci porta le insalate, lui ci prende la tipo la pala, gliela pestiamo, lui ci porta le insalate. Forse stamattina è venuta e mi ha portato due fichi. Hai visto? Due fichi freschi freschi. L'altra volta ti ho regalato una cassetta intera di fiorilli. Sarebbero i fiori di zucca che fanno tantissimo, mm-hmm. Cioè, e voi date solo gli attrezzi? Sì, sì, sì, bello, no. Quindi voi già lo fate questo, beh. Cosa altra carina al punto 8: durante le festività coordinati con il vicinato per decorare le strade. Secondo me questa è una cosa bellissima, cioè durante le festività, anziché ognuno si mette il suo alberello a casa sua eccetera, si coordina per addobbare un po' tutto il vicinato e fare anche una cosa carina, bella. Questo dovrebbe essere bello, perché da noi quando c'è Natale di solito gli unici a illuminarsi siamo noi. Sì. Tutti gli altri, tanto per non parlando di addobbi, però da dove sta lui c'è il vicinato proprio, sia sua madre che altre signore che invece puliscono la strada. Bello. Intanto sì, lo fanno magari a turno quando si sente, uh-huh. E lo fanno loro, non aspettano chissà cosa che pulisca la strada. No, perché noi abbiamo una visione molto ristretta delle insegne dell'insieme. E poi è bello che lì dove abitiamo noi, uh-huh, un giorno sì, un giorno no, pochi del più bello. Ma veramente un sacco ce ne sono, vero? Cioè, una impressione, sì. Oppure stanno tanti compleanni. Io no, quando per la festa di mamma, io mi carico a letto, sì. Visto dove c'è il letto, sì. Vedo il fuoco di letto. Incredibile. E Roberto, è vero o no? Sì, sì, sì, sì. Le ditte fanno affari. Però cioè, non vedo anche che non c'è tanta voglia a Natale di mettere le decorazioni. Cioè, no, è che a Natale secondo me si investe più sull'albero che si tiene a casa che non sulle decorazioni all'esterno. Ma anche adesso cose. Festività, tipo Halloween, però, è presa, sì, sì, molto, ecco, sotto banco Halloween. Io sono una fanatica. C'è lo stesso, domanda. C'è lo stesso contadino, quello dove diamo la pala. Che ad Halloween noi abbiamo fatto una coccardina di fantasmini fuori, abbiamo messo la zucca, insomma abbiamo fatto abbastanza bene, sì. e ha fatto anche dolcetti con il sacchettino a forma di fantasmini, no? Uh-huh. E lui è passato e anche altre persone hanno chiesto e poi ci fa, eh sì, vabbè, ma noi qua non lo festeggiamo. Cioè, praticamente. Proprio zero. C'è uno. Sì, no, è perfettamente americana. Nella nostra tradizione. Sì, però le persone anziane. Vabbè, che se uno lo prende come scusa per fare festa, sì, altrimenti non essendo una nostra consuetudine, una nostra tradizione. Comunque, il numero 7, secondo me utopistico, condividi il tuo giardino con i vicini. Sì, certo. Io lo farei, sì, perché io mi secco. Abbiamo un giardino disponibile. Quindi se il mio vicino di casa viene e me lo coltiva, io sono d'accordo. Viene, di pianta ci due cose. Ma io, attenzione che ti ha sentito. Lei lo fa. Lei... No, concorderei, sì, è vero, è carina. È carina come idea. Bella, però. Magari tu fai qualcosa in cambio per lui. Esatto. O magari coltiva le sue alcune poi, piante. Poi, anche quando vai in vacanza. In America è il prato inglese. Sì. E da noi il giardino è un'altra cosa. Io mi ricordo quando frequentavo Roberta, mia ragazza, che diceva, ma tu dove stai, dove abiti? Io ho detto, guarda, c'è questa casa tutta circondata da giardino. Io intendevo il giardino tipo l'orto. Lei già pensava a una bella villetta in campagna, tutta circondata da prato inglese, alberi e via dicendo. E quindi quando ha scoperto la verità, un pochino c'è rimasto. Però sì, effettivamente in America il fatto del prato inglese, chi non lo cura, non lo sa curare. Questo qui, l'articolo in particolare, comunque diceva giardino in senso proprio regino. Cioè il giardino come orto. Condividerlo col tuo vicino in maniera che magari lui che non ha lo spazio, non ha il tempo, fare una cosa comune per portare avanti un orto. Da noi vengono, c'è quel signore lì che ci ha piantato, ci dà anche dei semi, addirittura ci scambiamo i semi, mm-hmm. Ci ha dato una specie di semi a forma di che viene fuori un frutto rotondo, un po' di tipo. No, tipo una spiga di grano. E poi ce n'è un altro che invece fa con le spugne. Delle spugne che proprio si usano per la pulizia. Per lavarsi la faccia. E quando viene, si alza la mattina, prima viene a fare un giro nel nostro giardino, si guarda la situazione, fa quello che deve fare e poi va nel suo. Andiamo su nei miei porti a spezia, mi nasce il giardino, entra, fa proprio. Sembra una cosa astratta proprio da Reggio, sentirle quasi bizzarro. Sì, sì, no, qui è bella la cosa. Se fossi lassù mi ciecano tutto. Sì, sì. Appunto, numero 6 è una cosa che non ho trovato particolarmente rivoluzionaria, però offri di badare gli animali quando i vicini sono in vacanza. Assolutamente sì. Però, lo fanno. Sì, sì. Questa è una cosa che mi sembra abbastanza signore comune, che si prende cura di fare. Numero 5, una cosa che inquieterebbe forse anche un po', porta il giornale ai tuoi vicini di casa. Buongiorno! Oddio! Porta il giornale ai tuoi vicini, pensa tu, la mattina... Si comprano il cane, fanno prima. A me mi portano il pane in casa, compro il pane lì in casa. Mm-hmm. Vabbè, ma lo paghi. Sarebbe spettacolare. Vabbè, in America è normale, te lo lanciano sulla porta, qua no, qua si va. Si perché sarebbe spettacolare che tu la mattina ti alzi, ti svegli, sei ancora assonnato, scendi giù, ti affacci alla finestra e c'è sto vicino. E c'è il vicino. Con il giornale. E poi sono il coltello il giornale. Esatto, il giornale. Magari è arrotolato. Esatto. Prende a rotola il giornale intorno alla bottiglia di latte e te lo poggia davanti a lui. Esatto. Messaggi sul giornale. Alla porta. Mamma, bisogna sognare un cane a prendere i giornali tipo a così a blocchi così a portarli tutto il vicino. Non sai che il cane di mio nonno lo fa già? Riusciva a prendere il giornale e portarlo a casa. Sì, esatto. Comunque, al numero 4, una cosa che a noi può essere particolarmente cara perché... Gli americani ci insegnano, organizza regolarmente cene con i vicini durante le quali ognuno porta qualcosa da mangiare. È bello. Con bellissimo. Tutto rispetto, come la nostra noi cena ogni tanto facciamo una cena tipo questa a casa nostra. Mm-hmm. E io aspetto che i vicini si offrano da venirci a mangiare da noi. Cioè io li invito fisicamente a venire. Ma non viene nessuno. Non viene mai nessuno, quella è la cosa strana. Perché devi anche beccare giustamente il vicino, che è 2.0. È quello che manca. aiuto il mago, aiuto, che sono troppo di cuore. Lui viene, un giorno non mi ha visto, eh? Era un pensiero che mi sentivo male. Mi ha chiamato, non mi ha visto, era un pensiero. Davvero dipende dai lusso, cioè nel senso in generale comunque vicino. Appunto avete avuto anche sempre vicino nella top 10 avete positivo. L'Andrina ha fatto degli scambi naturali in natura, io ti do una zucchina, tu mi dai un pomodoro ecco. Una cosa del genere E Andrea ha tenuto subito. Ma tu e quindi ho ottenuto i favori dell'uno e dell'altro con okay. La sua simpatia. Bello, questo è bellissimo. Esempi positivi. Interscambio culturale, non culturale, culturale. Ti ho regalato dei semi di zucche. Interscambio. Ma non culturale. Solo con quello del col vicino di fianco, anche con quello davanti. Con tutti io faccio comunque. Oh, ragazzi. Che è una cosa bellissima. Al numero 3, una cosa che mi lascio un quello po'. Di tamburi. Un po' perplesso, perché qua siamo già nella top 10. Firma. Per i pacchi postali dei tuoi vicini. No, aggiungendo, no. Questo aggiungendo, sai qual è il motivo per cui i tuoi vicini non firmano per i tuoi pacchi? È perché tu non firmi per loro. Aspetta, firmare la ricezione. È una cosa che mi sembra. Firmare la ricezione. Sì, a me sembra illegale. No, mi sembra una cosa proprio. No, un poco no. Strano. Io firmerei. Vabbè, se anche per il mio vicino un pacco, non c'è il vicino, no, e questo funziona così, no? Ma vabbè, da me tipo c'è il. Non siamo così vicini, ecco. Ecco, esatto. C'è il bar sotto casa e praticamente è amico di mia madre, il proprietario, e quindi quando arriva un pacco il postino non gli attenta, lui gli mollano a lui, sì. Sì, sì, sì. E lui li chiede. Se sì. Conosce. Li paga pure a volte, e poi io non no. Tanto è ricco sfondato, quindi. Una cosa interessante è che potrei mettere un pacco e firmare un pacco qua. Il problema è proprio quello, non è così vicino da essere ancora un pacco di droga. A meno che non me l'ha detto. Si ha fiducia. Il pacco di droga non ti arriva per posta. E chi ne sa? Innovazione. Cioè, quando un pacco o comunque una raccomandata è nominativa, tu non vai a prendere. Cioè una cosa è questione di. Assolutamente no, io non lo farei. Ma al secondo posto una cosa che boh, apri un gruppo su Facebook per tenere tutti al corrente di cosa succede nel vicinato. Vicini 2.0. Ma queste sono le 10 regole da non fare o da fare? No, secondo, assolutamente no. Secondo se gli americani sono da fare se assolutamente. Se qui lo fai ti sparano. Perché non è da stalker. Fatti i gatti tuoi. Vecchi un vicino. Figurati, già si fanno i fatti degli altri e dà fastidio che il solo minimamente ne parlano con i propri parenti. Quindi immagina se lo vanno a scrivere su Facebook che lo sanno 40 milioni di persone. Oh ragazzi, l'altra sera ho visto la gattosola che si spogliava dalla finestra. Mi piace. Il secondo giorno. Poi il bacco è buffo perché l'altro giorno guarda sempre il mio giardino, no? Mm-hmm. E dice guarda che lassù nel cipresso c'è un uccellino piccolino. Mm-hmm. E oh, viene a vedere, mi controlla, mi rubano le rose. Tutto mi dice. Ah. Sono disciolto dalle macchine, sai? Cerca di. Vabbè, avete fatto rete, insomma, all'andarsi. È ancora fissata al punto 1-4. Sì, sì, no, ma. Sì, sì, ma vedi, mi dice. C'è anche scambio di informazioni. Bello, vabbè, questa cosa quindi l'avete fatta prima. Adesso una volta c'erano le signore che stavano al balcone, verificavano tutto l'andazzo del quartiere, quindi adesso. Come quella volta che sono uscita una volta le ciaciarotte quella volta una volta come quella volta che io a casa risiedo al terzo piano, no? Quindi è un palazzo. Mm-hmm. e ce n'è uno di fronte a me prima del mare, no? Allora uscita dal bagno ero in accappatoio, vidi un tizio e più in là è stato per un tot di tempo lì, no? E ho preso il cannocchiale perché mio papà piaceva vedere le stelle e il mare. Mm-hmm. E c'era sto tizio con lui con il cannocchiale che poi se ne andò. Io ci sono, ho fatto. voyeurismo tra voyeurismo urbano. Sì, cioè, assurdo, no? Davvero delle volte. Cioè beccare col cannocchiale uno che ma ti si guarda può. Col cannocchiale. Si può, uovo puttana. È illegale. Non lo sapevo io, ma manco lo. Non si può guardare nella privacy degli altri. Cioè, ti guardava dentro casa, non è, illegale. È non è bello. È il famoso guardone. Uno non potrebbe in teoria neanche andare. No, so, questo è un teleguardone. Sì, vabbè, è un teleguardone, ma il guardone non può perché invade la privacy degli altri. Io ho una casa dove dopo, dietro le mie finestre, lui non può guardare all'interno. Anche se sono libere da poter vedere, lui non deve mai vedere. Se accidentalmente vede perché sta di fronte a un paio di mani. Ma se con un cannocchiale, un binocolo mi guarda all'interno, sta violando la mia privacy. Sì. Non può farlo. Per legge è così, eh. Rientra nel guardone e può essere denunciato benissimo. Andrea, smetti, l'hai capito, perché è ancora in problema. Andrea, vendi quel cannocchiale e lascia in pace io. Non fare finta che vuoi guardare Giove. Che da qui non si vede. Ma se non c'è una ragazza che abbia meno di 60.000 anni che ti abbia avvicinato, una quella si chiama necrofilia, non si fa così. Cioè, guarda con un binocolo dentro le tombe. Comunque al numero uno la regola fondamentale secondo gli americani verso un buon vicino è non essere timido. Sembra ovvio, cioè, ma sapersi presentare con tutto il vicinato e presentarsi al vicinato. Perché se tu li guardi tipo con timidezza, loro pensano magari che gli stai antipatico e non legano. L'ho visto con me, che io magari sono più riservato e loro con me non parlano. Invece appena vedono lei subito, signora, come sta? Presentarsi una di famiglia. C'è un bambino, quello di oggi, sì, non lo ricordi? Quando era più piccolino mi diceva ciao signora. Magari quando ci sono io sono anche un po' titubanti, o quando c'è lui, perché proprio di carattere diciamo siamo più chiusi, no? Invece c'è lei che si mette, lei è più comunicativa, è bellissimo. Altra top 10 velocissima, e qua voglio il consulto speciale di Andrea, perché è la top 10 dei 10 scherzi più bastardi che devi fare ai tuoi amici. Vai. Quello del letto, assolutamente quello del letto, dell'acqua calda. Poi mi dici. Adesso non lo vedo però. Acqua fredda. Non me la vedo. Allora, al numero 10, secondo gli americani, uno scherzo imperdibile, generico, causare dolori e shock vari. Quindi risvegli assurdi. Classico. Schiuma da barba dentro i pantaloni. No, ma l'acqua fredda non la batte nessuno. Adesso arriveremo. Le scarpe. Intanto allora, noi vediamo intanto i 10 scherzi imperdibili per gli americani. Poi al nono, questo è un po' old school, incollare la cornetta del telefono ai propri colleghi. Se tu sei al lavoro, vuoi farti dei nemici. 100%. Perché aveva ancora le lettierine, quelle con la rotella che si girava. Peccato per me, però ormai siamo passati a 2.0 anche in questo. 2.0. Al numero 8, una cosa che ha le sue ambiguità: avvelenare i propri amici con cibi troppo speziati. Lo ha già fatto, lo ha già. Quello che faceva Andrea col pollo. Si può fare. Due panda. Come una volta che ho messo veramente la cannella nella pasta. A perdere, proprio era rosso di cannella, sembra pomodoro. La mangiavano e si stavano distruggendo lo stomaco. Che bestia! La cannella che è dolce. Sì, ho fatto apposta. Diciamo per aumentare la credibilità di Andrea, che questa sera ha fatto delle ottime lasagne, o no? Lo vogliamo dire? Sì, è bravo! Grazie, grazie. Non ha portato pure l'applausino, Andrea. Al numero 7 una cosa veramente incredibile, perché è uno scherzo che ha un video su internet particolare che si può riassumere in il pazzo con la motosega. Ma è un video assurdo con due bambini che stanno dormendo, il padre indossa una maschera, prende una motosega, gli salta addosso fingendo di ucciderli. Cioè, sei un padre degenere. Questi ragazzini che si svegliano, vanno in giro urlando. Più che altro, 10 minuti di divertimento per i genitori, 10 anni di 100 anni terapia da psicologo per i figli se non riprendere. Sì. Sì. Quindi padre degenere con motosega. Al sesto posto, lo sconosciuto nel letto. Questo è un classico. Sì, pure. Però in genere si usano più maschere, ad esempio sì. La testa di cavallo classica. Testa di cavallo è no, più particolare. Ha ragione Calabria, no? Questa cavallo è un'altra cosa. Io sento quella finta. Cosa, la testa del cavallo. Vero. Andrea, tu ti svegli spesso con gente sconosciuta nel letto? Una volta sì. Una volta sì. Sì. Soprattutto l'altro giorno dopo il concerto. Che mi sono svegliato tipo con i jeans però senza mutande sotto e due amici accanto. Le mutande erano sopra i jeans, tipo super. No, le mutande non c'erano. Non è bello. Stiamo scoprendo tanti altarini. Non è bello. Ma poi le ritrovate. Ah? Le ritrovate? Sì, erano nella mia borsa. Vabbè, complimenti. Vabbè, grazie. Accuratezza pure nell'essere ubriaco. Capito. Cioè, le mutande. Boh, perché mi ero fatto la doccia, non per altro. Sì. La doccia con due amici. Che... No, con due amici, i due amici stavano fuori. Ah, specifichiamo. Quinto posto. Quinto posto, fingere di aver tagliato una ciocca di capelli alla propria ragazza. Fatto. Mamma mia! Funziona. Come farsi lasciare no. Intero? No, e condannarsi a morte. Per me condannarsi a morte, certo. Non lo farei mai. Sa che riempirei di pugni il tizio. Lo riempirei di pugni. Bello. Sì. Lo faresti davvero? Lo farei davvero. Dico non vero, perché tanto non sente dolore lui. La cena dei regini.it, cliccate cena dei regini su dubac.it e vedrete il video di Nico permettiti. Si è armato, permettiti, si è armato e ti mando all'altro mondo. Al quarto posto la pellicola trasparente, quella che si mette sulle porte. Anche per su che dici? No, no, la pellicola trasparente dove si mette? Si alza la il sedile del water, si mette la pellicola e si riabbassa, non si vede. Cura. Se sei un maschio, vabbò, si vede la cosa che rimane a lei e chiedi che cosa succede. Se sei una femmina, il problema diventa più importante. Quindi, comunque, uno scherzo a base trash. Base trash. Al numero 3, fondo e burotalco. Questo non l'ho capito. Fondo e burotalco è spettacolare. Io ho visto un ma video, dentro il phon? Non l'ho fatto. Il talco dentro il phon. Mamma mia! Accendi il phon, sì. Esplode. Bellissimo. Il malcapitato diventa bianco. Poi lo farò, lo dopo farò. La doccia, quando uno è rilassato e appena uscito dal piatto caldo. I capelli ancora bagnati. Da fare, un meraviglioso fantasmino. Sì, sì, io faccio dei video su internet. Fondo e burotacco, ricordiamo. Tante teste voleranno perché io non apprezzo determinati scherzi. Tante teste, una ne ha. L'idea è Nico spettacolare. Ti reviderò così tante volte. Ti reviderò così tante volte, però. Sì, sì. Poi lo riattacca con su. Una fettina Lost tipo sushi. Sì, se ti mettono il fondo entra al burotacco. Il burotacco non il fondo entra al burotacco ci dà ritmo. Al secondo posto, mettere del tabasco in bocca ad un amico che dorme. Perché oppure, che cosa fa? Oppure disegnarlo mentre dorme. Il tabasco piccante. Nel nostro caso, nelle narici. Ah, tu già sei passata dalla vela. Così se lui ti mette il brotalco, tu gli metti il tabasco. Nelle narici. No, noi quando un tempo andavo agli scout e me ne vergogno. ancora altre penso che, a cucinare. Penso che secondo me si spegnerà piangendo. Noi facevamo una versione soft, mettevamo tipo i togo. Sì. Mettevamo in bocca ai nostri amici e loro li mangiavano nel sonno. Una cosa bella vedere che vivo. Noi gli scout mettevamo il dentifricio. Bello. E quando ti svegli col dentifricio bello secco tutto in faccia, non è ma addirittura quando lui dormiva che abbiamo disegnato. Ma quando? Ci abbiamo provato. Guarda, ci abbiamo provato. A me ha disegnato invece. Io quando andavo alla C ho una memoria, una compilation nella mia memoria dei voli che hanno fatto i miei camerandi. del dentifricio accanto al letto. C'era il volo a pesce, il volo a tuffo, poi lo strascichio. Ognuno ha le sue esperienze con. Però quello dell'acqua. Sono d'accordo col numero uno. Ma la medaglia d'oro? Il numero uno è uno scherzo che. Sarà anche un po' pericoloso. Nascondersi nel frigo. Cosa? Non sono per niente d'accordo. No. Cioè, uno, vabbè, non per spaventare, però comunque rientra nel numero 10. Prestatemi il frigorifero che ci devo fare. Perché è uno shock. Però forse il frigo è inteso come cioè, la cosa più rilassante possibile. No, ma io direi al primo posto io avrei messo lo scherzo e la bacinella piena d'acqua fredda accanto al letto. Sì, esatto. Cioè? No, cioè, che tu. Praticamente mettendo la mano di un amico che dorme in una bacina di acqua fredda gli fa liberare liquidi. Lo stimoli a fare la durante la notte dentro il letto senza volerlo. Fantastico. Scusate. Sì, è vero. Fantastico. Cioè, il corpo umano è questo qua che di cui ti ho parlato fino adesso. Non è uno scherzo. Io ucciderei. No, io probabilmente ucciderei quello là del frigo. Cioè, se me lo vedessi, luccico qualcosa di contundente la bottiglia del frigo fino a quando non lo vedo sanguinare. La bottiglia dell'acqua. Mamma, veramente. Sì. Non lo sapevo sta cosa. Io sarei terrorizzata da questa cosa. Non aprirei più il frigo perché il frigo mi rilassa. Io vado davanti al frigo a fissarlo. A sto punto, scusa, si prende perché della plastica. Ma anche dentro l'armadio. La si fa colare. E si fa tipo dei ghiacciolini fatti di plastica, che li metti in faccia, attaccati tipo con un po' di colla, rimani dentro il frigo così. Quando apri lo trovi morto. Non credo che tu gli tiri con però ti prendi un colpo. Gianluca! No. Perché? Non lo so. Richiudi la porta e scappi cercando un maniaco che l'ha chiuso nel frigo, secondo e me. E io non aprirò, diventerò anoressica, non aprirò più. No. Un modo per far dimagrire le persone. Buono. Certo. Abbiamo trovato il sistema. È successo di nuovo, ho scambiato la mia fidanzata per il gelato e l'ho messo là dentro. Tesoro, come è successo di no, però terrificante. No? Ma comunque, secondo me, nella mia personale top 10 degli scherzi questa settimana, come ne parlavamo prima, c'è lo scherzo dell'ascensore di Star Wars. Questi tizi che si sono messi un tizio sta dentro, uno fuori, nascosto. Quando l'ascensore va a chiudere le porte, quello che sta dentro fa con la mano il gesto alla Guerra Stellari per far aprire la porta che si apre, perché c'è quello fuori che prende il bottone. E quindi scene assurde che si creano di gente ovviamente incredula di questo che semplicemente pare che muove la mano e apre la porta. Io ho visto invece quello là della bambina dove io morirei. Diverse coppie o diversi ragazzi entrano in questo ascensore, fanno un tot di percorso, a un certo punto si spegne la luce, l'ascensore si ferma, si riaccende la luce e in un angolo c'è sta bambina terrificante. Sì, ho visto la reazione pazzo, tipo quella di Shining. Quella si gira e fa sì, è un Shining. C'è stata la reazione di un fidanzato che per difendersi ha cominciato a pestarla. Sta bambina, no, poveretta. Sì, sì, è rimasta per terra così mentre questo qua scappava con la sua ragazza. Sì. E la bambina così piangeva. L'ha pestata, veramente, ha avuto una reazione brutale. Ma è una bambina vera, no? Sì, sì. Era una bambina truccata, vera. Ma proprio come quella di The Ring, eh? I capelli davanti, la faccia tipo e da grida fantasma. E basta. Finita e basta, io mi spiaccicavo sul muro. Ma gli altri hanno avuto una reazione umana. Questo qui si è messo proprio a pestarla. No, ragazzi. Sì, io avrei fermato e l'avrei preso a cazzotti, sinceramente. Come l'hanno fermato? E questi scherzi, se non sbaglio, arrivano tutti dalla Spagna o qualcosa del genere. Tutti lì li fanno ste robe. Si messo. Tutti in Spagna. Perché lì se uno sta male di cuore l'ammazza. Sì, va, sì. Ragazzi, cosa non credi. Come un altro che è stato fatto sempre in un parcheggio di notte, dove le persone passano, no? E a un certo punto compare sempre sto fantasma, di una donna, di una signora. E le comiche delle reazioni, alcuni partivano a razzo, altri rimanevano lì a fissarle. Mi ha scioccato questa cosa. Tutta della Spagna, beh. Vabbè, perché hanno inventato qualche vecchietto. Mamma mia, a proposito di scherzi scioccanti, uno scherzo scioccante è capitato a un padre americano, che è il padre, e qua entriamo come al solito nell'angolo un po' pepato delle nostre notizie, il padre di questa attrice statunitense di nome Stoia. E Stoia ha un problema, Stoia è preoccupata per il padre perché ha raccontato di aver compromesso la passione del papà per i siti hot. Mio padre è arrabbiato perché ho rovinato il suo porno, ha detto lei, perché per fare più soldi ha dovuto firmare con una grande azienda, in particolare di quei giocattolini particolari, oggetti particolari, e quindi il padre non riesce più a entrare su un sito perché si becca la figlia. Mi assomiglia a una vecchia canzone di Elio, mi sembra che fosse, o dei Gem Boy, che vanno in giro per la città e beccano la madre. È ridicolo, veramente. È la tua madre. E questa è una cosa veramente incredibile. Sì, questo è un brutto scherzo. Questo è un bruttissimo scherzo. Sei un padre. Vabbè, un po' di Photoshop. E ok, ma tu guarda, entri in un sito, ti vedi la pubblicità al lato di tua figlia, non è proprio bellissimo. No, ma già il fatto che lei va in televisione a dire mio padre guarda questi siti, ecco, cioè, quindi numero uno, boom. Questo qua dice che ha accettato il lavoro della figlia, quindi vabbè, questo poco, però là l'ho rovinato il porno, quindi vai su questi siti e ti becchi tua figlia, cioè, allora, ti smonta totalmente. E quindi ragazzi, sì, è quello che succederà a Bach, è un mondo difficile, assolutamente sì. Dovrò entrare su un sito hard, vedere i miei video e quindi mi smonterò. Adesso, per restare in tema, è The Very Sexuals con Bowie's Eyes. Still dream of Radio Bawala. Don't be common, be creative. E ragazzi, anche per questa settimana è andata. Noi raccattiamo le cose e ce ne torniamo a casa, è giusto? Vi siete divertiti? Più entusiasmi, sì, entusiasmi. A parte Andrea, insomma. Che è di là a giocare. Vabbè, con ma Andrea faceva parte del background. Dello sfondo, certo. Ragazzi, questa è stata la cena dei Reggini, grazie di averci fatto compagnia, vi abbiamo fatto compagnia, speriamo di sì. Veniteci a trovare sul sito www.ilbac.it e cliccate la cena dei Reggini per avere la pagina con la nostra consultazione popolare per raccontarci il vostro facciamo che. E un saluto a tutti dal Bac e dai commensali della cena. Fate casino, fate casino, yeah! Fate casino. Yeah! Ciao!